Amiche ed amici di Radio Vostok, benvenuti a questo primissimo episodio di Noi Arte, l'angolo di intrattenimento dedicato ad ognuno di noi. Oggi abbiamo come ospite il mio grandissimo amico, se non collega di università, Felice Santulli, in arte Slade Wilson, che si occupa di regia. Un saluto a tutti, ciao Alessio, ti ringrazio per l'opportunità e per le due chiacchiere che mi concedi oggi pomeriggio. Allora, prima di tutto siamo noi che ringraziamo te per essere qui virtualmente, ecco. Allora, Felice. Piacere mio. Slade, anzi. Noi abbiamo deciso appunto di fare due chiacchiere con te perché, da come ci hai raccontato e da come abbiamo anche avuto modo di vedere, stai entrando sempre in maniera più profonda nell'ambito cinematografico, ecco. Sono diversi i lavori alla quale ti stai dedicando, anzi sei tornato da breve da un viaggio appunto alle Canarie, che ti ha dato modo di poter approfondire la tua cultura cinematografica e di fare esperienze sul campo. Io ti faccio questa domanda in primis: qual è la differenza tra Felice Santulli e Slade Wilson? Allora, ripartiamo, facciamo, questa è una domanda sempre un po' particolare, no? Quindi, vai, come ti posso spiegare? Chi è uno e chi è l'altro? Sostanzialmente, chi è Slade? Slade è quella parte più creativa, un po' come se ci fossero due persone in un singolo corpo. Non è che io sia bipolare, però perché c'è Slade Wilson nelle creazioni cinematografiche, tra virgolette, perché sostanzialmente lui è la valvola di sfogo di Felice. Quindi lui crea, rielabora pensieri, sensazioni e quant'altro, sfoghi, ma anche traumi sostanzialmente vengono rielaborati sotto, grazie a lui, in forma tra virgolette artistica, quindi in questo caso nei progetti che dovranno uscire nel corso dell'anno. Tra l'altro faccio anche un po' di pubblicità a Tetro Video, che mi sta distribuendo i film, mi sta dando l'opportunità di crearne altri passandomi comunque sceneggiature e quant'altro. Quindi sì, stiamo elaborando, stiamo andando avanti, è una bella crescita. Quindi possiamo dire che comunque Slade, come dicevi anche tu, è sia una valvola di sfogo, che possiamo identificarlo come una sorta di contesto artistico all'interno di te stesso, ecco, proprio una zona artistica all'interno di Felice, quindi un'entità artistica. Sì, esatto, sì, ma anche un'entità che, diciamo, si vuole liberare da paure, ansie sostanzialmente, quindi, come ti posso dire, lui aiuta me in primis nell'affrontare determinate cose nella vita che, diciamo, a lungo andare ho sempre reputato scomodo e quant'altro, quindi è anche un modo per affrontare le paure, no? Sì. Giocarci. Beh, guarda, questa è una risposta che secondo me ha del profondo e forte, ecco, perché comunque hai detto una frase che è molto bella, secondo me, quella del giocare con le proprie paure, quindi dello schernirle magari, però essere consci che comunque è una nostra debolezza, ma va affrontata. Ognuno ha il proprio modo di affrontare, ecco, quale può essere la nostra paura, debolezza o quel che sia. E ritornando al contesto invece cinematografico, quali sono, diciamo, i lavori che per il momento hai svolto che ti sono piaciuti di più? Tu comunque hai girato dei corti, alcuni sono disponibili anche su YouTube, se dopo ce ne vuoi raccontare un poco di qual è, certo, di come ti gestisci durante la creazione e cosa c'è dietro la creazione appunto di quello che può essere un corto, anche uno spot in generale, ecco. Per immagina un neofita ti domanda come funziona proprio la realizzazione di un progetto, da che cosa si parte? Certo, vabbè, qua prendiamoci un attimo, prendiamoci 5 minuti, sarà un po' difficile, anche un po' lungo da rispondere. Vabbè, diciamo che io prima di questo, prima di ufficializzare un corto su YouTube, si chiama Title, diciamo, prima di quei 5 minuti lì ci sono stati un po' di lavori alle spalle, che non siano solo in ambito cinematografico, ma anche lavori privati, che ne so, sai, le fotografie ai matrimoni, le fotografie ai diciottesimo, i video e quant'altro. Che è successo prima? Ci sono stati anni di crescita, sempre di evoluzione, sai, un po' quando prendi la camera te, la prendi con il tuo amico appassionato, sì, e dici va, creiamo qualcosa proprio a due persone da zero. Quindi proviamo, ecco. Ci sono stati anni dove capisci, esatto, proviamo, vediamo come si può scrivere un personaggio, come possiamo farlo evolvere in scena, come possiamo rimanere coerenti, come possiamo girare i dialoghi, come si gira un dialogo. Quindi sono stati anni di prove, prova, riprova, riprova. Gira piccoli cortometraggi anche di 2 minuti che mostrano quella cosa lì. E beh, diciamo c'è stata una piccola evoluzione dietro, poi me le sono tenuti sempre private queste cose qui, più per come crescita personale, per vedere io come sto migliorando e dove posso arrivare, più farli vedere al pubblico. Okay. Sostanzialmente era più un bisogno mio. Poi da là siamo arrivati a Title, che sta anche su YouTube. Sono 5 minuti di questo loop, alla fine il corto è un po' un loop che si ripete sempre, ogni volta. E anche là poi possiamo dire che si iniziano a vedere le prime tematiche che poi si ritrovano anche nei corti a venire, che ne so. A me incuriosisce un sacco la morte, ma si può dire, sono anche da un lato profondamente terrorizzato, e se dobbiamo ritornare al discorso di giocare con le proprie paure, io gioco cinematograficamente parlando, appunto, se c'è una cosa che sto sempre parlando e sto sempre trattando è la morte. Però là mi fa figo, perché tu sai, la controlli tu, un po' come se la controllassi te, ma non solo. No, dicevo, dimmi. Quindi possiamo dire che in quel momento, ecco, il regista può incarnare quella che è una filosofia, ecco, ed essere l'artefice del proprio destino, ma la cosa bella è che in ambito cinematografico il regista in quel caso è artefice proprio di una storia, di un racconto che, per quanto possa essere finto, perché giustamente è svolto dietro una camera, noi sappiamo bene, o comunque anche per le emozioni che suscita il cinema, ma in generale l'arte, lo spettacolo, è un mondo vivo. Quindi tu effettivamente in quel momento stai, come dire, rivestendo la parte di un'entità presente, forte, che appunto magari domina la morte, o sei tu che la controlli, e questo ti permette sia di affrontare questa cosa che di gestirla nella maniera, tra virgolette, più piacevole, ecco, possibile, diciamo, tra virgolette. Esatto, anche. Esatto, la puoi rendere grottesca, la puoi rendere ironica, ci puoi fare un po' quello che vuoi tu. Vabbè, ci sono anche altre sfaccettature, altri argomenti di cui io tendo a parlare. Sostanzialmente abbiamo preso questo come esempio più concreto. Ci possiamo rifare anche un po' alla realizzazione, quasi quasi, di un prodotto, un'opera, chi che sia praticamente. Cioè alla fine si parte sempre da un'idea di base, da, sai, sono stato a una masterclass qua ad Avellino, dove è venuto Paul Schrader, che è lo sceneggiatore di Taxi Driver, no? Sì. Di Martin Scorsese, penso lo conoscerà, ecco. E vedere un po' lui, mo non è che tu dici wow, mi ritrovo a scrivere sceneggiature come Schrader, però sai com'è, vedendo spiegare lui come scrive il tutto, mi sono ritrovato molto, cioè nel senso che fai, tu parti da un argomento, ora prendiamo come esempio, senza fare spoiler, un corto che dovrà uscire, tra l'altro in un film che si chiama Six Songs, che ora è in preproduzione. Sì. Devo consegnare anch'io il mio corto, lo sto finendo. Là che da cosa si è partito? Si è partito da la violenza. Ok, la violenza di genere, da questo contesto qui. Come l'abbiamo evoluto? Tramite questo ragazzo che ha compiuto, diciamo, un atto non proprio benevolo nei confronti della propria fidanzata, e si è ritrovato poi con un suo amico in un bosco, essendo che gliel'ha portato per farlo sfogare, no? Okay. Ora, detta così è un po'... non si capisce niente. Lascia diciamo lo che spazio all'immaginazione, l'amico... però penso che, diciamo, la sottotrama si sia intesa, ecco. Esatto, sì, sostanzialmente. Ora è un po' difficile parlarne senza fare spoiler o quant'altro. Però comunque, che ne so, lui spiegava Taxi Driver che si parte dalla solitudine. Dalla solitudine, quale può essere un elemento che la può descrivere? Un tassista. Perché un tassista? La maggior parte del tempo sta sempre solo, oltre a sentire delle storie degli altri. E io lavoro un po' così, si parte da quel punto lì, e poi si va sempre a evolvere con le altre sfaccettature, le sottotrame, come vuoi mostrare un determinato personaggio. Poi vabbè, quando, se uno avrà voglia, quando uscirà il film, di comprarlo, magari è tutto un po' più chiaro, no? però si parte sempre da un'idea e si è evoluto in un film con un contesto musicale, ecco, da che volevi, uno voleva partire descrivendo una violenza di genere, sì. In questo caso una violenza di un uomo contro una donna, ci siamo evoluti scrivendo sempre la storia in un film che parla di sirene, sostanzialmente di sirene con una forte componente musicale che è il canto, per quello poi è entrato nel film che si chiama, letteralmente tradotto in italiano, Sei canzoni, un film antologico musicale. E dalla poi, vabbè, c'è stata la scrittura della sceneggiatura, trovare gli elementi del cast. In ambito indipendente poi, sai, i soldi, essendo che sono i tuoi, sono anche limitati. Sì. Da regista indipendente tu puoi fare tutto, però c'è sempre quella limitazione del denaro. Quindi okay. Sceglierti la crew, gli elementi essenziali, che devono essere sempre pochi ma buoni, perché comunque su un set devono lavorare tutti quanti. Poi comunque... La ricerca della... C'è da dire che, almeno, ecco, il mio parere, in primis, appena si incominciano a fare i primi lavori, la componente fondamentale, secondo me, è anche trovare quella crew fidata o quel gruppo fidato, magari anche fatto di amici, che magari, ecco, possono andare a creare, ovviamente, come si è creato già negli anni, essendo amici, sicuramente un legame, ma anche lavorativo, che vada a scindere il legame d'amicizia, magari, e ci si mette in gioco per un progetto valido. Quindi non so se è anche il tuo caso, nel quale magari hai trovato comunque amici o compagni o persone che magari ti sono state vicine, che appunto, non dico hanno alleviato il discorso economico, però te l'hanno reso magari meno pesante, dicendo, ok, va bene, io questo lavoro lo faccio insieme a Felice perché credo in lui, quindi voglio portare avanti questa cosa, ecco. Diciamo, no, ma bravissimo, guarda, hai azzeccato tutto. No, ma hai praticamente azzeccato tutto, cioè, in queste produzioni tu non vai a fare il film indipendente di Felice perché vuoi diventare famoso. Quello può succedere nel caso su un milione, se sei veramente fortunato. Tu in primis ci vai appunto perché credi nel progetto, pensi che possa dire qualcosa e sì, sei contento sostanzialmente di farlo. Tu devi principalmente circondarti da persone che hanno tanta voglia, ecco, sì. Letteralmente ci devono credere, devono essere sempre con il morale alto, ecco. Perfetto. Non ci devono essere momenti di ansia, di stress su un set, perché come magari ci sei te che ti prendi lo schizzo per 5 minuti, quei 5 minuti fatali possono rovinare una giornata di riprese sane. Quindi tu devi, appunto, come hai detto, ti circondi di persone che credono nel progetto, vogliono farlo. Se succede un errore o se va qualcosa storto, nessuno si lamenta, che appunto dici, va là, non fa niente, e così si va avanti. Sostanzialmente tu devi creare sempre un'atmosfera, non solo tu, vabbè, anche gli altri che arrivano, si crea sempre quell'atmosfera piacevole per tutti, che anche se stiamo riprendendo delle, come ti posso dire, delle atrocità, ci si diverte sempre. Infatti posso fare anche l'esempio più concreto, che abbiamo girato il corto per Darknet. No, Darknet è il terzo film di una trilogia estremissima, XX Deep Web, XX Dark Web e poi questo, sì. E da lì abbiamo ripreso praticamente, abbiamo creato un corto extreme in tutto e per tutto. E come ti posso dire, nonostante la nudità esplicita degli attori in scena sul set, anche davanti a altre persone, nessuno si è mai sentito a disagio, nessuno si è, come ti posso dire, si innervosiva, nessuno aveva ansia, nessuno ha avuto crisi di panico. Comunque, che siano attori, crew, per lavorare, insomma, comunque è un lavoro, c'è anche la componente, certo, professionale, assolutamente, ecco, che deve essere una costante, assolutamente, che sia un film indipendente o che sia un film con un budget di mezzo miliardo praticamente, c'è comunque la componente del professionismo, sì. Sì, ma sai, poi quando sono i budget sempre più alti, quelli tendono a fregarsene di meno, perché dici, vabbè, si perde una giornata, non fa niente, i soldi non sono i nostri, si va alla prossima. Quindi là magari si possono permettere di avere più, come ti posso dire, più libertà, puoi fare più errori. Qua devi avere sempre un ritmo più serrato, più se elevato, ti schematizzi una giornata, esatto, sì, ti schematizzi una giornata bene sul piano di lavoro, devi cercare di rispettare tutti gli orari, tutte le possibili riprese. Quindi perciò poi ho detto più lavoro, come hai detto tu, anche perché bisogna esserne in pochi, pochi ma buoni, ognuno deve avere quel preciso ruolo. Cioè tu devi schematizzare proprio benissimo, devi ridurre al minimo, perché poi un film, non è detto che un film poco costoso possa risultare per forza cheap, brutto o amatoriale, ecco. Tu potresti fare anche un film beatamente con 1.000 euro. Guarda, il regista con cui sto lavorando e che ci ho fatto il corto alle Canarie, Domiziano, sì, Cristofaro si chiama, vai a vedere un film suo, si chiama Red Crocodile. Quel film è stato candidato ai David di Donatello, ma sotto più categorie, dagli effetti speciali alla regia e quant'altro. Sai, quel film l'ha fatto con 1.000 euro, appunto, e con 1.000 euro tu arrivi anche ai David di Donatello, se vuoi. Cioè, ne avevo scoperto anche questo. Quindi in questo excursus, ecco, diciamo, la passione e la dedizione ti portano comunque a candidature importanti, perché insomma io penso che ci siano diverse candidature prestigiose per i cortometraggi, lungometraggi, mediometraggi in generale, ecco, per tutto quello che riguarda l'ambito cinematografico. In Italia abbiamo diverse candidature importanti, anche all'estero. Io per esempio ultimamente ho scoperto che proprio in Turchia ci sono diverse candidature, cioè diversi premi per film e festival dei film importanti, e molti anche sconosciuti, parlo in ambito stavolta nazionale, sul territorio italiano. E Felice, io ti voglio fare un'ultima due domande. La prima che mi sento di dirti riguarda un ambito un po' più scolastico, ecco, magari una domanda che può andare più incontro verso le nuove generazioni, le nuove leve che si stanno approcciando a questo ambito artistico, e può essere una domanda un po' tra virgolette da boomer, però ci tengo a farla. Secondo te, lo studio universitario, o comunque lo studio proprio fatto pratico scolastico, quanto aiuta, e non dico influenza, ma quanto, ecco, lasciamo così, quanto ti ha aiutato effettivamente studiare, anche sotto un punto di vista, scusami, puramente non pratico, ecco, quanto ha influito lo studio, ecco? Allora, vabbè, ricordiamo anche che non facciamoci troppo vecchi, perché anche noi siamo nuove leve, sennò poi viene l'ansia, capi? Quindi da giovane ad altri giovani, guarda, secondo me ti trovi a pennello a fare sta domanda, perché mo cominciando a seguire, sono ritornato a seguire i corsi della magistrale comunque, e mi ritrovo con il discorso di un professore che ho conosciuto da poco, essendo iniziati appunto da poco i corsi, dove diceva appunto che con l'arte effettivamente Non si mangia tanto, quindi con quello che ti può dare il nostro percorso universitario, con l'arte mangi poco, però potresti mangiare di più con la cultura, magari, che non sia una cultura anche più generale, anche a livello, diciamo, economico, su come gestirti. Diciamo in maniera pratica. Dimmi. Se siete ingegneri, lavorate. Se invece studiate arte, no. Invece, ragazzi, non fate come noi, non studiate arte, è giusto? Esatto, no, è vero. No, fuggite, ma guarda, sciocchi. Se dobbiamo dirla tutta, veramente, il nostro settore, o fai robe estremamente costose e vieni pagato altrettanto, o c'è l'estremo opposto, letteralmente. Appunto, stiamo a dire con i film indipendenti, se vai a lavorare il film indipendente di Felice, non, gli attori non sono pagati, se non le spese per fare avanti e indietro sul set, quindi la benzina della macchina, e tanto meno diventa famoso. Quindi là vieni per passione, perciò o sei pagato tanto o sei pagato pochissimo, però non è detto che non ci puoi campare. Appunto, se cosa mi sta dando lo studio? Ultima, guarda, a parte quel poco punto di cultura in più che fa sempre bene, anche per poterle rielaborare in idee nell'atto pratico sostanzialmente, perché comunque poi vai a vedere cosa abbiamo studiato. Noi abbiamo studiato roba principalmente teorica, cioè io la pratica, come ho detto all'inizio, me la son fatta più da solo, mettendo la telecamera appoggiata al mobile, riprendendomi e quant'altro. Quindi se mi può dare una buona base teorica, la puoi sempre sfruttare a tuo vantaggio. Quindi sì, con la cultura, se c'è un po' di cultura, sempre ci potresti mangiare, anche perché la cultura ti aiuta a vedere i fenomeni sociali, vedere come puoi usarli a tuo vantaggio, che siano anche i social, quant'altro. Quindi effettivamente l'università non è da sottovalutare, ecco, neanche lo studio in generale. Non è che poi magari uno finisce a lavorare pure al McDonald's, ti fai un culo così e poi non appari niente. Però anche quello è un caso, però io ti direi sempre di non sottovalutarla sotto sotto. C'è sempre qualcosa che potresti utilizzare a tuo vantaggio che ti potrebbe portare comunque a un guadagno o a poter guadagnare. Quindi, Assolutamente. voilà, fa sempre bene, secondo me. Anche per un proprio Però rapporto mai. personale. Sì, però se sono contrario più se una cosa del genere poi debba distruggerti sotto tutti i punti di vista, perché poi ogni tanto le università ti mettono sempre quegli orari che poi durante il resto della giornata C'è tu non l'altro puoi fare lato più della niente. moneta, ecco, della medaglia. Parlando di Esatto, discorsi quello proprio. poi finché diventa uno stress poi là è un'altra roba. Io una cosa che ci tengo a Bisogna dire sempre, vabbè. è non esiste tempo per lo studio. Prendetevi il tempo del quale voi avete bisogno e non vi fate mettere ansia da esterni. È la vostra vita, è la vostra carriera universitaria. Abbiamo fatto la battuta per quanto riguarda l'arte, non si lavora. È vero, è un ambito un po' più difficile, ma raga, fate sempre quello che voi volete e desiderate. Anche perché, per esempio, a me è sempre stato Assolutamente. consigliato sempre di no, studia, fai le materie scientifiche, fai questo. No, ragazzi, a me fanno schifo le materie scientifiche, io voglio dedicarmi all'arte, mi sono dedicato all'arte, lo sto continuando a fare e chiunque ha questa passione, fatelo! Io distruggo il mio tavolo intanto. No, ma poi guarda, se ti vuoi autocostringerti a fare, appunto, tu sei più una persona interessata all'ambito umanistico, vuoi costringerti a fare una roba a livello scientifico, amico mio, o si impazzisce direttamente, oppure non so, non concludi niente e non arrivi neanche a finire gli esami del primo anno. Quindi, indipendentemente da tutto, uno fa quello che vuole anche per salvaguardarsi la propria salute mentale. Poi se devi scegliere un qualcosa che non è attinente a te, amico mio, sei un po' un imbecille magari. Non perché sia sbagliato che devi sapere già da subito cosa vuoi fare e a cosa vuoi puntare, però bisogna saper riconoscere, secondo me, cosa a lungo andare, cosa ci piace veramente e cosa meno. Poi il mondo Esattamente. gira ormai così, Mi ma in un trovi modo si può sempre campare. perfettamente d'accordo con tutto. E io questa volta termino facendoti un'ultima domanda che però non la rivolgo a Felice, bensì la rivolgo a Slade. Quindi ti do il tempo un attimo di fare lo switch di personalità nel frattempo che formulo la domanda. No, Effetti vabbè, ma speciali. non sono bipolare, quindi no, non sono tipo che qual è il film di Shyamalan Split. Ogni tanto Switch. No, no, è tutto a posto. Io la domanda che ci tenevo a farti è, secondo te, anzi più che secondo te, diciamo darci secondo te, un tuo punto di vista, ecco, come preferisci, ti lascio libera interpretazione a questa domanda, ok? Che consiglio ti senti di dare, ma non solo a chi si vuole approcciare, perché magari un pochino già ne abbiamo parlato, ma che consiglio ti senti di dare agli ascoltatori? Io non ti parlo in che ambito, ti parlo in genere. Se ci sta un consiglio che tu ti senti di dare al mondo, alle persone, a chi ci ascolta, una cosa che tu vorresti urlare pubblicamente, che può essere anche andate tutti a quel paese, o può essere amatevi tutti e fate bene, fratelli, oppure che possa essere tu non puoi passare, quello che vuoi, insomma, puoi dire quello che vuoi. Un messaggio, ecco. Ma secondo me una roba che può essere più azzeccata anche con me. E quindi magari a un qualcuno che si potrebbe ritrovare nella stessa situazione, raga, qualsiasi cosa che dovete fare, fatela senza letteralmente paura, perché niente, la paura è brutta, la paura domina le nostre vite, sti cazzi del pensiero altrui, sti cazzi di quello che si dice in giro, sti cazzi di tutto, raga, ci si butta, bisogna buttarsi su qualsiasi cosa, secondo me, vaffanculo, non bisogna farsi dominare da paura. Le paure poi ci saranno sempre, però almeno Noi saremo se si qui ad sa come affrontarle. affrontarle e, come fa Felice nel caso, a schernirle anche se c'è l'occasione. Esatto, se posso, perché no? È divertente, ci divertiamo noi, ci si diverte chi vede. Poi il grottesco fa sempre bene, no? Ci serve sempre quel qualcosa di grottesco nella Assolutamente. vita. E Felice, io ti quindi, ringrazio signori, io faccio uno tantissimo. sponsor a Tetro Video intanto, scusami Alessio. Andate su Tetro Video, comprate i film, fatevi scioccare, come diceva Pasolini, chi non vuole essere scioccato è un moralista di merda. Raga, andate, comprate i film da Tetro, va bene. Felice. Anche perché ha rubato i 2 minuti. Vai, tu alla radio, io me ne vado. Vabbè, in caso un'edizione di quei film diventa ultra rara, stralimitata, può arrivare a costare anche un botto. Poi comunque ti puoi rivendere pure l'edizione e ti fai anche i soldi. Quindi, e siamo buona tutti più contenti. Oddio, non ti sento più. Ci sei ancora, Alessio? Sì. No, okay, ti sento. Ci siamo. Ok, ho fatto la mia marchettata. Ok, perfetto. Corso dell'anno, Six Song e Darknet. Felice, io dopo questa marchettata io vi invito veramente, ragazzi, perché al di fuori della gag veramente merita tanto. E Felice, io ti ho nominato 28 volte, ti ringrazio estremamente tantissimo veramente per averti per essere stato qui, ti ho rubato del tempo, mi dispiace, ma... Vai tranquillo, Alessio, meritavi. Io ti ringrazio anche perché mi ha fatto sapere, sai, non ci sentiamo da tanto tempo, magari ci siamo anche un po' allontanati in quest'ultimo periodo, però guarda, le cose sono rimaste sempre uguali sostanzialmente, cioè anche come ti vedo io come persona, come sei nella mia testa, quindi ci tenevo a dirtelo comunque. Grazie. Anche se c'è stato un allontanamento, sappi che ti voglio sempre bene, ti stimo un sacco, poi te ne parlerò magari anche meglio. Okay. Di tutto, quindi figurati, grazie ancora Alessio, una scena stato... di candela allora. Esatto, dai, è stato un piacerissimo, è stato bellissimo, mi ha fatto un botto piacere, veramente. Ciao Felice, grazie botte, mille. Però hai capito. Grazie Alessio, mille, ciao, grazie a te. Grazie a te, un bacione a tutti. Ringrazio anche tutte quante le amiche e gli amici di Radio Vostok, che noi ci becchiamo in un prossimo episodio. E mi raccomando, ricordatevi sempre che bisogna...